Allora, io porto Amelia Earhart, che magari molti di voi già conoscono, è stata una delle più grandi aviatrici al mondo, perché questa donna qua, io ne sono innamorata, cioè non è stata solo un'aviatrice, ma è stata molto. Il suo lavoro col volo è andato di pari passo con la sua crescita personale e la sua consapevolezza. Quindi è una donna che apprezzo tantissimo. Allora, io l'ho intitolato Le ali della sorellanza e ve lo leggo semplicemente. Allora, il coraggio è il prezzo che la vita esige per l'assegnazione della pace. Questo pensiero raccoglie quella che è stata la vita di una donna che è riuscita ad affermare se stessa. Amelia Earhart, conosciuta come la più grande aviatrice di tutti i tempi, è stata una donna determinata che, oltre a dedicare la sua intera vita alla passione per il volo, si è battuta per l'emancipazione femminile, rompendo il muro del patriarcato che ha sempre voluto le donne relegate al ruolo di mogli e madri. Amelia nasce in Kansas a fine dell'Ottocento da una famiglia borghese, Amy Edwin. I suoi genitori mai si opposero alle scelte della figlia, anzi, la spingono sempre a essere se stessa. Dopo il diploma non si capisce bene se da infermiera o qualcos'altro, non è tanto specificato. E col dramma della guerra, Amelia decide di prestare soccorso come infermiera negli ospedali in cui vengono ricoverati i soldati di rientro dall'Europa. Questo la prova parecchio, tanto che il padre, nel 1919, per risollevarle il morale, la porta ad assistere ad uno spettacolo di acrobazie di aerei e lì ha modo di fare il suo primo volo, che dura solo 10 minuti, ma fa pensare ad Amelia che deve assolutamente volare. Ha 23 anni. Poi Amelia si iscrive alla facoltà di medicina, ma fatica a concentrarsi. Il suo pensiero la porta sempre al desiderio di volare. Lascia l'università e si cimenta in mille lavori per guadagnarsi i soldi che le permettono di pagarsi le lezioni di volo. Ad Amelia non spaventa il lavoro. Col passare degli anni, il problema dell'alcolismo del padre porta la famiglia ad avere gravi problemi economici e lei si abitua presto a far fronte a quello che la vita le mette davanti. È testarda, caparbia, si rifiuta di accettare che le donne rispetto agli uomini siano limitate nella scelta dei lavori e che siano sottopagate. Riesce a farsi assumere come autista di un camion e si assicura una buona paga, con lo stupore e la perplessità di chi la vede guidare mentre passa. Comincia le lezioni con un'insegnante donna, perché le donne volavano già in realtà, però potevano farlo solo privatamente. Se erano ricche, si potevano comprare un aereo e quindi in automatico volavano, ecco. E questa donna la porta a scoprire tutti i segreti del volo e scompare la sua lunga chioma per lasciar posto a un taglio molto corto che nel giro di poco tempo verrà imitato da milioni di donne, perché giustamente doveva mettersi il cappellino e quindi fa il taglio drastico. Grazie all'aiuto dei suoi genitori, a 25 anni riesce a comprarsi il suo primo biplano, un piccolo aereo tutto giallo che lei chiamerà Canary. Amelia desidera tanto lavorare nell'aeronautica, ma quel tempo alle donne non è concesso. Così, per tutta la vita, lotta perché ciò avvenga e si mette sempre alla prova per dimostrare che le donne possono fare tutto al pari degli uomini. Nel frattempo, col suo Canary si cimenta in acrobazie. Probabilmente venivano pagati quelli che facevano le acrobazie, quindi si guadagnava da vivere così, ecco. Inizia a farsi conoscere. In una di queste occasioni spinge sul biplano sempre più in alto e raggiunge il record di altitudine mai tentato prima neanche da un uomo. A breve segue anche un altro record, che è quello della velocità. Essendo ormai una pilota esperta, prende la licenza internazionale di volo. Alle donne era concesso pilotare se avevano un loro aereo e riuscivano a prendere il brevetto privatamente. Tutto quello che era pubblico era vietato. Le cose precipitarono quando i suoi precipitano quando i suoi decidono di divorziare e si trasferiscono. Qui è costretta a vendere il suo aereo, lo compra un ragazzo ricco e spavaldo e niente che niente sa di aerei. Amelia si offre di dargli qualche nozione di volo. Il ragazzo con arroganza le risponde che mai avrebbe permesso ad una donna di insegnargli niente. Amelia si allontana tristemente e pensa che la presunzione non lo farà andare lontano. Un mese dopo la notizia, il ragazzo e il suo amico muoiono a causa di una manovra sbagliata. E quindi il suo aereo scompare praticamente perché esplode. A Boston trova lavoro come assistente sociale in un istituto per bambini. È un periodo molto sereno per Amelia, le manca molto volare, ma si rende conto che al momento non può fare altrimenti. Non passa molto tempo che viene contattata dal capitano Riley, che avendo letto su di lei e sulla sua passione per il volo, le propone una pericolosa impresa che segnerà il record per l'aviazione, la prima donna a sorvolare l'oceano dagli Stati Uniti al Galles. Ad Amelia non sembra vero, nonostante debba fare solo da passeggera e da ragazza immagine, l'idea di volare ancora le fa accettare la proposta. Firma un contratto di responsabilità con l'aeronautica e un contratto con la casa editrice di George Packman per la stesura di un libro e per la pubblicità sull'evento. E qui vorrei aggiungere un appunto. Praticamente lei era una donna molto alta, magra, molto mascolina. Quindi praticamente sì, loro volevano mettere in scena che anche le donne volavano, ma non la donna tutta elegantina, cioè quella doveva stare al suo posto. Quindi hanno puntato su di lei, sul fatto che fosse molto mascolina, quindi in automatico. Sì, lei può, ma le altre devono stare al loro posto. Ecco, in sostanza era questo. Lei era consapevole di questo, però aveva talmente voglia di volare che alla fine ha accettato questa cosa qua. Insomma, quindi il 17 giugno del 1928, a 31 anni, Amelia, in compagnia di Stultz e Gordon, sale sul Friendship, che tra l'altro apparteneva a una donna che non era in grado di volare. Lei non era capace e quindi aveva finanziato questa spedizione, ecco. Quindi l'aereo apparteneva a una nobildonna. Dopo 20 ore senza scali e non con poche difficoltà, atterra nel Galles. Mai nella sua vita si era sentita così bene e libera. L'atterraggio doveva avvenire a Southampton, che non so dove sia di preciso, e il giorno seguente dovevano volare verso quella località. Ma Stutz, il mattino, era ubriaco, e così Amelia gli proibì di volare e salì lei ai comandi. Quindi all'arrivo l'effetto mediatico aveva già raggiunto il mondo intero. Una folla di persone e giornalisti vedono scendere dal posto di guida proprio lei, una donna. L'enorme successo le fa guadagnare il nomignolo di Lady Lindy, in onore del capitano Lindbergh, il primo che nel 1919 fece la traversata in solitaria. L'equipaggio viene ricevuto da alte funzionalità inglesi e Amelia, in tutte le interviste, non si crea problemi a dire che il merito è di Stultz. Quindi è una donna onesta, guadagnandosi la fama di persona onesta e modesta, e mostrando al mondo intero che gli aerei possono avere altri utilizzi che non siano solo bellici. Al rientro negli Stati Uniti vengono ricevuti dallo stesso Lindbergh e da Packman, che si occupa sempre delle sue pubbliche relazioni. Amelia ha un solo sogno: dimostrare le capacità femminili in tutti i settori. Per questo motivo, nonostante vuole rimanere nell'ombra, accetta di mettersi in mostra. Scrive il suo primo libro sulle sensazioni del volo, dal titolo Felice di volare. Compra un nuovo aereo, inizia a tenere una rubrica su Cosmopolitan, che già c'era, di stampo femminista, in cui invita le donne a rischiare sempre per ciò che desiderano, e se falliscono non importa, sarà uno spunto per altre che arriveranno dopo. Amelia crede fermamente che tutte le donne dovrebbero fare ciò che desiderano, soprattutto qualsiasi sport, perché io non ho messo tutta la parte della sua infanzia, ma lei passa l'infanzia praticamente con i nonni in campagna, perché i suoi erano in ballo a cercare lavoro in città, e si dedica da piccolina già a tutti gli sport, ne combina di tutti i colori praticamente, e fa anche prove di volo, tra l'altro. E quindi lei è molto appassionata di sport, questa cosa che viene preclusa alle donne non la condivide, ovviamente. Allora, anche se si batte fermamente perché le donne entrino in aeronautica, lotta per l'accesso a tutti gli sport e agli uomini che ribattono con frasi tipo: con quei vestiti e corsetti non sareste in grado. Lei risponde creando una linea di abbigliamento sportivo ispirandosi ai modelli di Coco Chanel, azzardando a farli ancora più corti per la praticità del movimento, perché Amelia non vuole spersonalizzare le donne, ma affermare fortemente la loro femminilità in ogni campo. E qui mi è giunta una curiosità, dove sono andata un attimino a curiosare, siccome lei gira al mondo, se si fossero mai incontrate con Coco Chanel. Non ho trovato niente, le ho messe associate, però, boh, però sono curiosa, frugherò ancora. Con il suo nuovo biplano, che lo chiamerà Avroavian, si cimenta nuove sfide, congiungendo in volo New York, la California e ritorno, stabilendo un nuovo record. Nel 1929 la Grande Depressione mette in crisi il paese e Amelia, che grazie alle promozioni dei suoi voli sta economicamente bene, generosamente si preoccupa di dare una rendita a sua madre, alla sorella con il marito della sorella, al padre, alla nuova moglie del padre, e continua ad inviare soldi alla vedova del padre quando lui muore. Quindi è una donna anche molto generosa. Poi, con altre nove donne aviatrici, decide di partecipare al derby internazionale di aviazione femminile, indetto dal club di aviazione maschile, perché esisteva solo quello praticamente. Perché seguendo l'esempio di Amelia, il numero delle donne pilota in America era aumentato a dismisura. L'aviazione però pretende che a bordo ci sia almeno un uomo, ma loro si rifiutano categoricamente di questa cosa qua perché vogliono fare un volo in solitaria e siccome tutto il meccanismo è già partito, gli uomini cedono e volano da sole, insomma. Avrebbero volato loro per 9.000 km in solitaria nello spazio di tempo di 9 giorni. E questo segna un inizio di sorellanza che le porta poi a creare un club di aviatrici. Viene chiamato, se non sbaglio, il club delle 99, perché erano 99 donne, mi pare, in questo club. Sì, erano tantissime. A loro non importa arrivare per prime, ma che ci sia una grande solidarietà fra loro. Si sostengono, si aiutano a vicenda, dimostrando a tutti che l'unione tra donne fa la differenza. Una di loro purtroppo precipita e Amelia arriva terza. Sfrutta la sua notorietà per portare avanti la battaglia che possa permettere alle donne di entrare in aviazione. Nonostante sia totalmente per la pace, ritiene che se una donna lo desidera, deve potervi accedere. Intanto, dopo il divorzio di lui, decide di sposare Pacman, ma sottoscrivendo entrambi che Amelia non sarebbe mai stata la donna docile che sta a casa, ma avrebbe continuato a essere molto indipendente. Pacman mai le va contro. Anzi, la sostiene orgogliosamente, si preoccupa sempre di far conoscere il suo valore e di raccogliere i fondi per permettere alla moglie di volare. Oh mamma, aspetta che sono girati. Lo stava leggendo una mia amica, ma ha mischiato i fogli. Ok, dovrebbe essere qua. Giusto. Eccomi, giusto, giusto. Allora, nel 1931 Amelia, sempre decisa a dimostrare di valere quanto gli uomini, decide di fare in solitaria la traversata dell'Atlantico, contando di arrivare a Parigi. Parte il 20 maggio del 1932 all'età di 31 anni. Il volo riesce perfettamente senza intoppi. Solo in ultimo ha un problema al motore che la costringe ad un atterraggio di emergenza in una fattoria. Nel vederla, il fattore sgrana gli occhi e chiede: "Ma lei da dove arriva?" "Dall'America, arrivo dall'America, è atterrata in Irlanda." Ed è la prima persona e donna ad aver coperto quel chilometraggio in solitaria. L'effetto mediatico, grazie alla pubblicità del marito, è esplosiva. Amelia fa il giro dell'Europa tra un ricevimento e l'altro. Riceve inviti e udienze private dai reali di tutta Europa, in cui tutte le donne sono solidali con lei, procurandole abiti adatti, visto che ha con sé solo la tuta di aviatrice. Praticamente queste donne aprono il loro guardaroba, tutte le varie raccolgono per vestirla, per mandarla a fare la serata di gala, di presentazione, insomma. E sta cosa l'ho trovata bellissima io. Allora, riceve onorificenze e medaglie dai vari ordini dei paesi che attraversa. In Italia viene ricevuta dal Papa e da Mussolini. E qui anche mi fermo, perché tu dici, vabbè, da Mussolini, per carità. Però teniamo conto che Mussolini, togliendo tutta la sua parte politica, ok, era comunque un uomo che per l'Italia voleva le donne chiuse in casa a fare tanti figli. E quindi sta cosa qua che la riceve Mussolini, cioè, e comunque una grande vittoria anche lei, insomma. E poi dal Papa, il Vaticano, sappiamo bene il pensiero che avevano verso le donne, insomma, in quei tempi ancora di più. Quindi sta cosa mi è piaciuta anche questa. Però Amelia non è fatta per la vita mondana, è più interessata agli sguardi delle donne che sempre in maggior numero la colgono, vogliono parlare con lei, complimentarsi, le chiedono spesso come ha fatto a diventare chi è e chiedono a lei consiglio. al rientro in America, l'allora presidente Hoover dà un ricevimento per lei. Per tutti, Amelia è la boccata di ossigeno in un momento di crisi di paese, è definita la regina del cielo. Alla presidenza di Roosevelt, si legge, viene invitata insieme a suo marito ad una cena. Lì conosce Eleanor, la First Lady, con cui stringe una forte amicizia. Durante la cena le due donne chiacchierano e si confidano. Così Eleanor confida ad Amelia che per il paese anche lei vorrebbe fare qualcosa, che la invidia per il suo senso di libertà. Amelia le dice che se vuole fare qualcosa è nel posto giusto. Eleanor ha anche un forte desiderio di volare, così Amelia chiede al presidente se possono recarsi allo hangar privato ed è così che le due donne più conosciute al mondo sorvolano in città a bordo di un biplano e lo fanno in abito da sera e tacchi a spillo, dimostrando ancora una volta quanto non ci siano limiti a quello che le donne possono fare. Amelia è stanca di stare ferma, ha di nuovo voglia di fare qualcosa di eccezionale. È il suo terzo libro, ma questo non la paga. È così che decide che vuole fare il giro del mondo. È il 1935, ci vorranno 2 anni per organizzare tutto. L'impresa sarà finanziata dallo stesso Roosevelt. Intanto che attende il momento di partire, Amelia pubblicizza anche una nuova compagnia aerea che permetterà di fare i primi voli di linea. E tra l'altro non mi sfugge il nome, ma c'è ancora questa compagnia aerea. E fa la tratta, mi sembra, a New York, non mi ricordo più, una bella tratta lunga. È stata la prima tratta a passeggeri, praticamente. È il 1935, no, niente, l'ho già letto. Insegna all'università femminile, tenendo lezioni di emancipazione e spingendo le studentesse a fare sempre nella vita ciò che più desiderano. Praticamente c'era ai tempi in America le due università erano attaccate, la femminile e la maschile, e le donne non potevano passare dall'altra parte, quindi lei spingeva per questa cosa qua ed è diventata per questo insegnante. Il 17 marzo del 1937 tutto è pronto per la partenza. Amelia con il suo Electra e in compagnia dell'esperto pilota Norman è pronta a fare il giro del mondo, partendo dagli Stati Uniti, passando per Honolulu, Howard Island, Nuova Guinea, Australia, India, Africa, Brasile e rientro, con a disposizione tante navi, quanti sono gli scali che l'aiuteranno a fare in fase di atterraggio, un percorso di 29.000 miglia. La partenza verso Honolulu non crea difficoltà, ma il decollo verso Howard Island reca gravi danni all'aereo e solo la prontezza di Amelia salva la vita a lei e al suo pilota. Il viaggio è interrotto, ci vogliono parecchi soldi e tempo per riparare l'aereo, ma Amelia non si arrende. E tra l'altro sempre finanziato da Roosevelt questo viaggio, no? Quindi rivede il percorso, trova altre sovvenzioni e il 20 maggio del 1937 riparte, sempre assieme a Noonan, invertendo la rotta. Il volo procede senza grosse difficoltà e le comunicazioni via radio sono costanti. Amelia racconta al marito sensazioni e meraviglie di ciò che sta vivendo e il marito scriverà un libro di questo volo con le sue sensazioni riportando le parole esatte. A 22.000 miglia manca lo scalo di Haula Island. L'Electra decolla, il volo è tranquillo, è una zona piena di isolette e atolli e ci vogliono precise coordinate per permettere l'atterraggio. Al mattino presto l'aereo si trova in prossimità del luogo. Così Amelia comunica via radio con la nave che li guida, comunica la posizione per ben 3 messaggi, ma non riceve mai risposta. Sulla nave hanno problemi con la radio a causa della batteria scarica. Provano un'altra frequenza, ma la donna non sente niente. Le ultime parole di Amelia sono ancora quelle di comunicare la posizione e del carburante che sta finendo. L'Electra scompare, portando con sé una delle più grandi donne mai esistite. È il 2 luglio del 1937, 3 settimane più tardi, Lady Lindy avrebbe compiuto 40 anni. E poi c'ho un dopo Amelia, che secondo me è importantissimo comunque. Allora, alla notizia della tragedia, il presidente Roosevelt organizzò il più grande soccorso che la storia abbia mai conosciuto. Per la ricerca di Amelia, mise a disposizione 9 navi, 66 aerei, per un costo totale di 4 milioni di dollari. Le ricerche si estesero per 25.000 miglia e continuarono per mesi senza nessun risultato, solo quello di accorgersi che gli atolli nella zona erano molto di più e che c'erano isole con montagne e che le mappe erano errate. George Patman a gennaio, e questo succede a luglio, quindi dopo un tot di mesi, a gennaio chiede che Amelia fosse dichiarata morta. per poter usufruire dei suoi fondi fiduciari e con quei soldi continuò le ricerche. Smise solo con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché praticamente in quella zona lì ci sono stati tanti scontri, cadono tanti aerei e dopo non si capisce più niente quali potessero essere i resti. Quindi allo scoppio della guerra praticamente sono state completamente interrotte. Però nel 1940 in un'isoletta trovarono i resti di un corpo che i tempi attribuirono ad un uomo solo recentemente, nel 2018. Nuove tecnologie hanno confermato che si tratta proprio del corpo di Amelia. Con i calcoli di rotta sbagliati si suppone che sia atterrata in qualche isola disabitata ed essere morta di stenti. Tante spedizioni nel corso dei decenni sono state fatte per trovare il relitto dell'Elettra. Il relitto non è mai stato trovato. È il 1948 quando la prima donna entra a far parte dell'aeronautica militare. Ad oggi le prime simulazioni di volo dei cadetti vengono effettuate su un prototipo dell'aereo d'Amelia e il maggior premio loro riconosciuto è l'Amelia Earhart Award. Allora, concludo con un pensiero di questa splendida antenata. La cosa più difficile è la decisione di agire, il resto è semplice tenacia. Le paure sono tigri di carta, puoi fare tutto ciò che decidi di fare.